Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ragazzi, vorrei che mi portasse una casetta così, di legno, con i buchi sui lati. La terremo sulla cattedra e ci metteremo dentro tutte le domande che vi verranno in mente. E poi cercheremo insieme le risposte. E i buchi a che servono, professor? Ci dobbiamo mettere le domande o i cuscini? I buchi servono a far respirare le domande. Le domande hanno bisogno di aria. Se una domanda è di corto respiro, anche la risposta sarà di corto respiro. Questo sta peggio dell'anno scorso. Diciamo che puntualmente ogni tanto parliamo di modelli alternativi di scuola. Poi alla fine si torna sempre agli stessi modelli, agli stessi che sono in vigore sin dai tempi del libro cuore, sempre uguale la scuola. La mattina si va a scuola, poi c'è la ricreazione, poi si torna a casa, poi ognuno per sé e Dio per tutti. Beh, io ho un'ossessione e questa mattina la unisco a un discorso che probabilmente interessa a chi ha dei figli a scuola. Io ho un po' l'ossessione degli spazi vuoti, degli spazi desolati, degli spazi chiusi. Una delle attività che più mi appassiona è la ricerca dei luoghi abbandonati per poter essere riutilizzati. Io trovo che le città siano dei grandi contenitori di spazi abbandonati, usurpati, che bisognerebbe rimettere in condizione di essere fruibili per la felicità delle persone che abitano nella città. Fra tanti spazi che via via vado cercando, classificando, cercando di espugnare, le grandi caserme che non si sa perché che ci stanno a fare, caserme chiuse senza soldati più dentro, qualche vecchio colonnello in pensione che ci ha fatto casa, da lì non si muove più, pensate cosa si potrebbe fare dentro. Beh, immaginate le scuole. Le scuole, quando escono i ragazzi, vengono chiuse, si tira giù la saracinesca, si mette il lucchetto, fino alla mattina dopo non c'è nulla. Magari il pomeriggio sono delle persone a fare le pulizie. Cosa c'è dentro una scuola? Ci sono aule, c'è spazio, ci sono spazi attrezzati, ci sono laboratori, ci sono palestre soprattutto. Voi pensate dei genitori che dopo aver preso il figlio a scuola al pomeriggio devono riattrezzarsi per una successiva e ulteriore transumanza, portare il ragazzo in degli spazi dove deve consumare naturalmente ancora il suo tempo utile, non soltanto il suo tempo futile. Quindi deve andare a fare corsi, deve andare a fare magari terapie, penso ai ragazzi con handicap, che molte volte vengono riportati in un altro posto dove magari è sufficiente avere un'aula con dei banchi, con delle lavagne, con delle tabelle, con del materiale cancelleria, e si fanno delle terapie abilitative. Immaginate, sono delle palestre, immaginate la fatica di riprendere i figli, rivestirli, riprendere e riportarli in palestra. Ecco perché le scuole sono chiuse, perché questi grandi contenitori comunque di senso ma anche di attrezzature vengono chiuse il pomeriggio. Nessuno pensa che gli stessi ragazzi potrebbero comunque andare nella stessa scuola, magari attivata per altre attività, per altri tipi di usi. Perché noi dobbiamo correre alla ricerca di palestre, di aule, di posti semplicemente per parlare o per fare ripetizione o per studiare, quando ci sono questi grandi luoghi chiusi, sigillati, come se ci fosse qualche entità che si debba riposare? Beh, questo lo domando questa mattina a Marco Paolo Nigi. Buongiorno professore. Buongiorno. Segretario generale del sindacato SNALS CONFASAL, però anche persona che sta dalla mattina alla sera in delle scuole a contatto con ragazzi. Da lei nasce questa idea, perché le scuole vengono abbandonate, chiuse, tolte dalla possibilità di essere fruite? Come mai si è posto questa domanda innanzitutto? Si è posto questa domanda perché effettivamente, al di là della scuola come istruzione, quindi come corso curricolare, manca alla scuola tutta quella parte di attività culturali, ludiche, formative, ricreative, che potrebbero essere usufruite non solo dagli studenti, ma anche dagli adulti del territorio, perché così si possa aprire la scuola dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 20. Non certo per studiare, perché non è questa l'idea di un tempo pieno, che è una cosa che non condivido, perché c'è lo spazio per l'istruzione, ma c'è anche uno spazio per attività diverse e meno impegnative, ma altrettanto valide e interessanti. Quindi una scuola che si apre dalla mattina alle 8 e viene divisa, diciamo, in tre segmenti. Una parte importante, fondamentale, istituzionale dell'istruzione, con studi curricolari, magari ritornando a una serietà degli studi, a un impegno maggiore che gli alunni debbono dedicare alla scuola, a questo segmento mattutino generalmente. Un pomeriggio invece di attività culturali, ludiche, formative, ricreative, anche sportive. Cioè uno switch, la scuola il pomeriggio diventa un'altra cosa, si anima, magari entrano per adulti, entrano ragazzi, entrano esatto. Attività sportive, che sarebbe fantastico come idea. Innanzitutto sì. Una sorta di ottimizzazione degli spazi unica. E seconda cosa, si dà anche ragione a delle strutture che sono utilizzate al 50% praticamente. Esatto, sì, è così proprio. Allora, 800240024, avete mai pensato voi a una proposta del genere? E cosa ne fareste di una scuola aperta al pomeriggio? Nel vostro quartiere, immaginate quante sono le attività che comunque necessitano di quattro pareti attrezzate con dei servizi, magari di una palestra, magari di un cortile, magari con delle attrezzature di tipo informatico, e però il pomeriggio non si può andare dalla scuola perché è chiusa. E magari ce lo spiega adesso il professor Nigi perché il pomeriggio sono chiuse le scuole. Lei questo suo pallino già l'ha proposto a un paio di governi. Ho letto una sua lettera che aveva già sottoposto al ministro Carrozza, ma col ministro Giannini si è rifatto avanti nel fare questa proposta, visto c'è grande attenzione nel governo Renzi per la scuola, anzi. A parte le canzoncine fatte dai bambini, pare sia un interesse primario, almeno sembra. Sì, ma io mi sono rifatto avanti, certo, con l'attuale ministro Giannini, aspetto un incontro per discutere di questa proposta, perché è importante, spazi vuoti lasciati così, con riscaldamento acceso, tanto per parlare anche di cose spicciole. Ah, perché nelle scuole rimangono accesi, certo, sì, naturalmente. Per forza, rimane acceso, si accende, mica si spenge mai il riscaldamento. Il riscaldamento è continuo, come succede nelle case. Quindi lei pensi l'impatto che è, diciamo, in un quartiere medio avere degli edifici scolastici iperriscaldati, quando poi magari si fanno dei tagli su cose molto certo. Più ridicole e non utilizzati, poi magari con dei certo. Centri anziani, con gli anziani che stanno lì e si scaldano con lo scaldino, con dei ragazzini che vanno in palestre molte volte difettose, non mai sempre perfettamente in regola con tutte le norme di sicurezza, con persone certo. Che avrebbero bisogno di spazio anche per socializzare. Gli farebbe certo. Anche comodo avere un'aula per parlare dei fatti loro, magari, o per certo. Fare un congresso, certo. Per fare una formazione, quante cose. Certo. Sentiamo Vania. Vania, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Che le sembra di questa idea? Sì. Prego? Cosa le sembra di questa idea? Ma è giusta, tanto è vero che nel nostro paese, Gambolò, provincia di Pavia, si fa già. Quindi tutto l'impianto scolastico, prima di tutto, dall'asilo nido, scuola materna, elementari e medie, è tutto nella stessa zona, con chiaramente delle strutture diverse, ma sono tutte lì, quindi è comodo anche per i bambini, non hanno, si può dire, poco trauma. Tra gli insegnanti si parlano, poi la cosa più importante di cui sta parlando lei è che le strutture vengono utilizzate tranquillamente per fare altro. Abbiamo un ottimo, come si chiama, auditorium, che è un teatro dove vengono fatti gli spettacoli. Adesso io non sono proprio una che partecipa attivamente, però ci sono i coro degli anziani, diciamo, di Gambolò, che vanno lì, fanno le loro prove, poi fanno i concerti. Poi comunque non diventa un luogo spettrale la scuola, il pomeriggio continua a vivere come è giusto che sia, visto che è una struttura esatto. Che fra l'altro paghiamo anche noi, riscaldiamo anche noi, manutenzioniamo anche noi, quindi è giusto che lavori a tempo pieno. Sì, infatti è così, le palestre ce ne sono ben due interne alla scuola, e poi c'è l'impianto sportivo esterno dall'altra, semplicemente dall'altra parte della strada, basta passare la strada, ci sono campi da tennis scoperti, calcio. Sarebbe uno spreco, io penso le stesse madri che riprendono i ragazzi da scuola per il pomeriggio vanno a fare fitness in un altro posto, pagando fra l'altro cifre considerevoli, quando a scuola avrebbero magari una palestra dove potrebbero fare esattamente la stessa cosa. Sì, lì vengono tutte utilizzate, tante volte utilizzano da altri paesi, noi vediamo quelli limitrofi, vengono proprio da lì, da altri paesi, per fare da noi. Grazie Vania. Giuseppe, buongiorno Giuseppe. Salve, senta, anch'io penso che sia una cosa veramente eccezionale. Nel mio comune, un piccolo comune in provincia di Torino, la nostra scuola elementare la sera è aperta a un gruppo che fa prove di canto lirico proprio, e quindi senti proprio passandola di fronte molto forte le voci, il tenore piuttosto che altri strumenti musicali, e quindi cioè, è piacevole vedere che veramente uno spazio morto alla sera prenda vita. dando opportunità appunto di trovare uno spazio dove poter eseguire. Grazie prove. Giuseppe, io sto notando, veramente questa cosa mi ha sorpreso, questo argomento mi è stato proposto ieri sera, dico ma facciamolo, vediamo. L'entusiasmo delle persone stanno scrivendo, come se improvvisamente una cosa che sembra una banalissima proposta risolvesse un'infinità di problemi di gestione familiare. Mi dicono tutti gli ascoltatori, bravissimo, le piscine, le biblioteche, gli spazi pubblici. Dice poi, pensa da giugno a settembre, non sa mai dove mettere i propri figli, mentre le scuole sono chiuse, i maestri fanno 3 mesi di ferie, potrebbero badare ai nostri figli a costo zero. Qualcun altro dice, il problema sarebbe di far presidiare le scuole dal personale, basta far lavorare i professori per 40 ore a settimana invece che 20, come fanno banchiari o impiegati della regione. Dice, non si fa perché i presidi sono assolutamente contrari. Allora, professor Paolo Nici, andiamo nel punto forse sì, più critico. Perché non si fa? Qual è il problema? Ma non si fa perché questo dei 3 mesi di chiusura o di ferie dei docenti è una balla metropolitana. Nessuno, sì, lei è anche docente, quindi ribilancia, certo, la situazione. Sono anche docente, sono un professore di scuola. E quindi questi 3 mesi ferie non esistono. La scuola lavora per 215 giorni l'anno e nessun lavoratore in Italia fa più di 215 giorni di lavoro. Perché se ai 360 toglie un mese di ferie, toglie il mese di ferie le domeniche, togli 52 sabati e domeniche da tutto l'anno, le festività soppresse, vedrà che alla fine arriva a 220 giorni, come sì, ma, tutti i lavoratori. Sì, quindi ma questo è chiaro, logico. Va tolta l'idea dei ferie. Casomai è scomodo, perché proprio i docenti hanno le ferie obbligate quando si chiude la scuola, mentre tutti gli altri lavoratori possono avere le ferie in qualunque momento. Allora, detto questo, tanto per una favola metropolitana, c'è da dire che il lavoro dei professori, dei docenti, dei maestri è un lavoro impegnativo che, se fatto come dovrebbe, non a caso all'inizio della trasmissione io ho parlato di ritorno alla serietà degli studi, cioè bisogna che gli insegnanti preparino le lezioni, diano i compiti, spieghino, interroghino, correggano i compiti, facciano vedere, andando a cercare di premiare le eccellenze e non andare a premiare le mediocrità come sta succedendo questo oggi. Però, professore, attiene per la parte, diciamo, mattutina della scuola. Però quello che ci interessa sapere, ecco, fermiamoci un istante, che devo dare le informazioni del traffico, solo pochi secondi. Comincia, ragazzi, per rispondere come accadrebbe, cosa accadrebbe, come si trasformerebbe la scuola nel pomeriggio e che parte avrebbero in questa trasformazione le persone che già ci stanno la mattina, se mai è previsto nel suo piano, nella sua idea, nella sua utopia, che debbano avere un ruolo. Melog, cronache meridiane. Sono cose che già avvengono in altri paesi. Io ho sempre in mente il sistema tedesco, nel quale la scuola si fa al mattino, mediamente sono 22 ore settimanali di insegnamento di 45 minuti. Poi la scuola sta aperta tutto il giorno a disposizione della comunità e vi sono altre figure che subentrano al posto degli insegnanti. E cioè noi dobbiamo distinguere ciò che si fa nella scuola, da una parte l'insegnamento e dall'altra funzioni, che so, di doposcuola, di promozione della comunità scolastica e dell'intera comunità che sta attorno alla scuola. Questo è un concetto importante, ma è altrettanto importante dividere le funzioni. Questa è una dichiarazione, abbiamo preso su YouTube, di Rino Di Meglio, che è il coordinatore nazionale Gilda degli insegnanti, quindi l'idea comunque circola, arrivano altri messaggi, la fantasia si è scatenata. Luca Modena, la scuola materna lascia a disposizione il giardino fino alle 18 per bambini e familiari con un bagno libero, però tutti vorrebbero anche le aule libere. Poi vediamo un po', avevo visto le proposte, dunque, 20 anni fa un allenamento invernale per la squadra di baseball nella palestra di una scuola, fu fatta una scuola massimo. Poi altri dico, feste di compleanno si potrebbero fare per i ragazzi, lasciarli liberi di usare la scuola, fare set per film, allestire set fotografici. Sì, c'è una serie di attività comunque che vengono fatte. Gli spazi liberi hanno un valore, possono essere anche impiegati in maniera proficua. Immagino quante persone fanno corsi di formazione, fanno comunque attività che hanno bisogno di aule, e queste aule la scuola potrebbe metterle a disposizione. Potrebbe essere anche una attività remunerativa che potrebbe compensare in parte i costi della scuola. Sentiamo Daniele. Daniele, buongiorno. Buongiorno. No, niente, io volevo semplicemente intervenire. Sono il presidente di un'associazione sportiva che fa basket e oltre alle difficoltà gestionali e di recuperare il tempo e denaro per riuscire a fare questa attività, diamo comunque un servizio che con tutta la buona volontà non è sicuramente quello che potrebbe dare la struttura di una scuola con insegnanti più qualificati. E poi comunque, visto che i ragazzi comunque all'esterno pagano una quota, sarebbe utile che questa quota arrivasse alla scuola per poter fare attività sportiva durante il periodo pomeridiano, che secondo me è anche più logico per un bambino rimanere all'interno della scuola in un ambiente che conosce già e non andare in giro per il mondo a cercarsi il posto dove poter fare attività esattamente sportiva. Lo stiamo dicendo noi. Vedo che c'è un fraintendimento da parte degli ascoltatori, tutti dicono ma gli insegnanti non ci starebbero mai. Ma non è che ci devono stare quegli stessi insegnanti, cambia, switcha completamente, è un'altra cosa. E poi altri sono scandalizzati, fare fitness a scuola, ragazzi, ma cos'è? Mica ho detto fare delle orge, è fare un'attività fisica per il benessere, la piacevolezza e la bellezza anche delle madri. Non ci marceriamo e non ci battiamo sempre questa sorta di mito del pauperismo o dell'austerità, ma viva la faccia, magari le madri avrebbero luoghi per sentirsi belle e desiderate il pomeriggio nella stessa scuola, potessero fare saloni, palestre, attività fisiche, quello che vogliono. Dov'è il problema? La scuola ne sorriderebbe, ne starebbe meglio. Sabrina, buongiorno. Buongiorno, sì. Arrivo, eccola. Allora, niente, io davo la testimonianza, non utilizziamo le aule della nostra scuola per fare dei corsi musicali. Un gruppo di genitori volontari, abbiamo costituito un'associazione che si chiama Associazione Piatti, seguita da insegnanti ovviamente retribuiti, e però utilizziamo le aule scolastiche per questi corsi, ovviamente non con un po' di conflitto con la preside, che non è mai d'accordo. Perché vede come una profanazione della sacralità dell'edificio scolastico. Fa un po' di discussione, poi questa preside, insomma, un po' i bastoni fra le ruote li ha messi inizialmente, poi vabbè, adesso collaboriamo e cerchiamo di utilizzare sempre gli spazi che lei ci mette a disposizione. No, voi state facendo un'operazione di lenta espropriazione, cercate, diciamo, è un braccio di ferro. Diciamo la proprietà è del comune, quindi ovviamente abbiamo fatto un accordo scritto con il comune, e la scuola, la preside, fa il suo servizio, quindi anche lei giustamente. No, io sto pensando che disperatamente a Roma stiamo cercando spazi per i ragazzi autistici, per fargli fare attività al pomeriggio. Pensiamo alle scuole che sono vuote, si può fare infinità di scuole. Allora, Marco Paolo Nigi, andiamo al punto. Su due punti vorrei provocarla. Primo, diciamo, la copertura finanziaria di questa vicenda qui, come se l'è prefigurata. Secondo, non è che c'è proprio un problema di liturgia che verrebbe toccata? La sacralità del luogo scolastico deturpa, perché io ci vedrei delle attività, andrei molto oltre della sua proposta, ma veramente ludiche, divertenti, interessanti. Farei suonare i gruppi musicali, farei dei corsi di qualunque cosa possibile e immaginabile, porti in un ambiente scolastico, un ambiente giustamente dedicato al rigore dello studio, il pomeriggio deve cambiare completamente, essere un posto dove la gente si dedica alla parte piacevole della propria formazione. Sì, ma dunque il progetto deve essere istituzionale, cioè, perché quello che ho sentito dalla collega, non mi ricordo, è già previsto, le associazioni, le imprese possono chiedere l'utilizzo della scuola per fare attività proprie della propria impresa, della propria azienda. Ma non è questo il problema, questo esiste già. Non è un una tantum su richiesta, deve essere una cosa istituzionale. No, una cosa istituzionale dove si dice, con la compartecipazione certamente della regione, perché nel titolo quinto, nelle parti in cui c'è il ragionamento delle attività diciamo insieme fra Stato e regione, è prevista anche questa, la formazione, cioè l'offerta formativa maggiore. Quindi la regione, invece di fare grandi discorsi, di rubare la scuola alla scuola, dovrebbe invece contribuire alla parte che è sempre importante per la società, per più motivi, perché oggi tutte le famiglie di tutti i posti devono per forza mandare i figli o all'atletica o in piscina o da un'altra parte, perché stanno a lavorare, quindi non sanno dove neanche andare questi piccoli, questi ragazzi. E quindi è necessario, è una risposta a un problema sociale gravissimo che esiste. Ma ci sarebbe veramente una presa di posizione, non voglio dire ostile, ma non certo favorevole da parte dei responsabili degli istituti scolastici, come diceva la nostra ascoltatrice, secondo lei? Ma io non credo assolutamente. Già ho esempi in Italia di apertura in questo senso. Cioè, istituzionalmente il pomeriggio la scuola, con la collaborazione anche economica delle regioni e la partecipazione, con la partecipazione economica dei genitori, perché non è quando ora mandano i figli in atletica, certo, o lo fanno gratis, altre parte non pagano, sarà un prezzo politico certamente, poi nella studio più approfondito si arriverà anche a determinare che chi non può spendere dovrà essere aiutato attraverso una. Comunque si ottimizzano le risorse su un progetto che perlomeno sia di soddisfazione comune, con dei margini di risparmio notevoli, visto che si coordina tutto nello stesso luogo, nello stesso posto, con persone con esigenze omogenee, in fondo, che sono ragazzi coetanei. Certo, e il personale docente non è quello della mattina. Non ne viene utilizzato neanche i collaboratori, deve essere personale in più. Ecco, ma ci sono dei problemi dal punto di vista della sicurezza dell'edificio scolastico, delle norme di accesso, di manutenzione, non so, per esempio si può fare sì, perché se la palestra c'è la mattina si può fare anche il pomeriggio. Si può fare sì, ora qui si tocca un tasto complicato, non c'è scuola in Italia che sia completamente a norma, quindi né antisismica, né per l'elettricità, per l'energia eccetera, quindi il problema esiste, ma esiste per tutti, esiste anche per l'attività scolastica. Grazie professor Marco Paolo Nigi, speriamo che la nostra proposta abbia una eco. Aspetteremo. Alla prossima.